Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Dopo le parole pronunciate ieri dal Premier Matteo Renzi, si ragiona sulla bolletta nella nuova versione, mi verrebbe da dire, e cioè la bolletta elettrica che dovrebbe contenere anche il canone RAI. Ne parleremo perché a noi così a spanne i conti non tornano, nel senso molto banale che siccome il canone ogni anno vale 1.600.000.000 di euro, adesso non posso fare la classifica, la faremo dopo, ma è un canone RAI ampiamente evaso, si va dal 49% della Campania fino alle regioni più virtuose, che se non ricordo male sono Piemonte e Veneto, ma anche Toscana soprattutto, dove il tasso di evasione del canone è tra il 18 e il 23%, Beh, facendo una media spannometrica, che è più o meno del 30% di evasione, se tu portassi il canone attualmente a 113 euro, a 100 euro, ma lo pagassero tutti, attualmente lo pagano solo 16 milioni di italiani, e sappiamo che non sono 16 milioni i televisori degli italiani, dicevo, il gettito sarebbe molto più alto, cioè invece che dare 1 miliardo e 600 milioni alla RAI, arriveresti a dare oltre 2 miliardi probabilmente, il che cioè, non è di per se stesso un peccato, ma basta dirlo, altrimenti se l'operazione è pagare meno, pagare tutti, devi abbassarlo ancora di più se riuscirai ad ottenere un'evasione ridotta quasi al nulla, visto che sarà inserito nella bolletta elettrica, e quindi portarlo a una cifra intorno agli 80-85 euro. Ne parleremo comunque con il sottosegretario dell'economia Zanetti nella seconda ora del programma. Parleremo anche dell'operazione che ha non scosso, perché sarebbe sbagliato dirlo, la borsa da tempo si aspettava l'operazione che tutti hanno battezzato Mondazzoli, cioè la fusione, l'acquisizione da parte di Mondadori del gruppo Rizzoli, però l'ufficializzazione arrivata leggermente in ritardo rispetto alle attese è piaciuta chiaramente alla borsa e i titoli si sono mossi di conseguenza. 127 milioni e 500 mila euro ha pagato su una valutazione complessiva di 130 milioni il gruppo Mondadori per acquisire RCS Libri, Rizzoli Corriere della Sera Libri, il che significa marchi storici come Rizzoli, Burr, Bompiani, Marsilio e anche altri marchi che entreranno a far parte del gruppo Mondadori, che ha già marchi come Einaudi, PM, Spelling e Kupfer, esclusa dal passaggio invece ad Elfi, che è stata acquisita, diciamo, dal fondatore Roberto Calasso, infatti acquisirà il 58% che era detenuto da Rizzoli Corriere della Sera. Anche di questo parleremo, e poi in apertura la classifica uscita, ogni anno la seguiamo perché è molto importante, dei best global brands, al di là dell'inglesismo, vuol dire la classifica dei 100 marchi a livello mondiale che hanno più valore come marchio, non i 100 marchi che fatturano di più e che hanno maggiori utili, ma semplicemente il valore intrinseco nel marchio, come se tu dovessi cercare di comprare quel marchio e basta, quanto fatturato sviluppa il solo marchio. È una classifica che vede pochi movimenti nei primi tre posti, lo dico già, ma molti movimenti nella parte media è medio bassa. 349-238-6666 è il numero come sempre per i vostri sms, mentre resta la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo dalla borsa, come sempre più 2,65% in questo momento Milano, vicinissima ai 22.000 punti, scusatemi, il FTSE MIB 21.960, non è però solo Milano a guadagnare così tanto oggi, anzi Parigi più 3,5%, Francoforte più 2,70%, Londra più 2,70% anch'essa. Per quello che riguarda l'euro su dollaro siamo a quota 1,12,09, quindi quasi 1,12 e 1, leggermente in rafforzamento, ma poca cosa. Faccio notare che va particolarmente bene Saipem, quasi il 10% di rialzo. E poi Iux Net-a-Porter più 6,80% il rialzo, Tenaris più 5,28%, CNH Industrial più 5%, Azimut più 4,40% come Mediaset, appunto il Banco Popolare più 4,40%, Eni più 4,30%, Ubibanca più 4% come Telecom Italia e Fiat Chrysler. Di negativo c'è Eterna, meno 0,60, e Pirelli invariata, tutto il resto è positivo. Segnalo anche tra i migliori e i peggiori che Saipem sta facendo, si scommette soprattutto sul riassetto, sull'aumento di capitale che dovrebbe precedere poi, o anzi che sarebbe preceduto da un ingresso della Cassa Depositi e Prestiti. Insomma, il mercato scommette molto su Saipem. Faccio notare che il titolo però molto aveva perso negli ultimi mesi. Per quello che riguarda, dicevo, i titoli molto forti oggi, anche Telefonica più 6,83%. Allora, per quello che riguarda il petrolio, mi chiedete, il petrolio oggi fa poca notizia, o meglio è salito del 2% a $46.50 al barile. Faccio notare che nel tentativo di mantenere le sue quote di mercato, l'Arabia Saudita ha tagliato il prezzo delle sue forniture di greggio previste a novembre verso i clienti asiatici. C'è il timore infatti che l'Asia, che rallenta, chieda meno petrolio. La stessa mossa l'avevano già fatta a settembre altri paesi medio orientali. Il vertice TPP, il Trans-Pacific Partnership, allora, sostanzialmente fortemente voluto dal presidente statunitense Barack Obama e dal premier giapponese Abe, il TTIP non va confuso con l'altra trattativa in corso che riguarda invece l'Europa e gli Stati Uniti, il TTPI, che dovrà decidere come si regolerà il commercio di merci soprattutto tra Stati Uniti e Europa, quindi tra le due sponde dell'Atlantico, un tema che non interessa molto, per esempio il riconoscimento. L'Italia vorrebbe puntare al riconoscimento della DOP su alcuni prodotti alimentari, a mio avviso non ce la farà mai. Altra cosa invece avere un riconoscimento più forte di ciò che è Italian Sounding e ciò che invece è italiano veramente. Insomma, la trattativa è ancora in corso. Nel frattempo però gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per ridefinire le pratiche commerciali con l'altro lato, il lato Pacifico, quindi 11 paesi dell'area del Pacifico, paesi che comunque da soli fanno il 40% dell'economia mondiale, vanno dal Canada al Cile, dal Giappone all'Australia, e prevede l'accordo una serie di liberalizzazioni degli scambi con una riduzione delle barriere doganali e anche l'unificazione di standard e procedure. Secondo gli esperti, questo accordo potrebbe ridefinire gli scenari industriali e influenzare i prezzi di qualunque prodotto tra Stati Uniti e i paesi del Pacifico, dai formaggi ai medicinali per il cancro, si dice con una battuta, ma mica tanto. L'accordo è, ripeto, gemello a quello che stanno ancora negoziando Stati Uniti ed Europa. Vediamo l'Europa, ma non solo, perché oggi l'OCSE ha presentato, d'intesa con il G20 e 60 paesi partner, la lista completa delle 15 azioni da mettere in campo per contrastare l'elusione fiscale da parte delle grandi aziende. Sappiamo cos'è, non è l'evasione, è l'elusione, cioè tu vai, hai la sede legale dove non in realtà fatturi, ma dove ti costa meno pagare le tasse, e diciamo le grandi multinazionali della new economy sono molto old da questo punto di vista, nel senso che lo fanno ampiamente, vi ricordano ampiamente. Allora, oltre ai 7 punti già concordati nel 2014, tra cui c'era un capitolo sull'economia digitale, i nuovi punti prevedono anche le misure contro trasferimenti finanziari fittizi, e il fatto appunto che tu giri la casa madre quanto fatturi e lo fai fatturare a lei nella sede che ti è più opportuna e più comoda, in debiti e deduzioni di interessi e filiali fantasma, oltre a un sistema di monitoraggio dei risultati. L'OCSE ha calcolato che i mancati introiti di imposte sul reddito delle società a livello mondiale provocati dalle elusioni e ottimizzazioni fiscali, come si chiamano in gergo, valgono tra il 4 e il 10% del gettito globale di queste imposte, ossia tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all'anno. E a questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Abbiamo spesso parlato dei danni provocati agli stati dalle grandi multinazionali che riescono a evitare di pagare le tasse laddove i loro utili vengono realizzati. Oggi è l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, a calcolare in un documento che a livello mondiale ogni anno si perdono tra i 100 e i 240 miliardi di dollari di imposte sulle società, tutte tasse non pagate grazie all'utilizzo di pratiche elusive e pianificazione fiscale scorretta. Si tratta di un problema che produce effetti pesanti, un fenomeno che insieme all'Italia penalizza molti altri paesi, tanto che ora è proprio l'OCSE a muoversi, mettendo a punto una strategia globale per contrastare queste forme di illegalità. L'OCSE oggi ha presentato un suo piano d'azione che sarà discusso tra pochi giorni a Lima in occasione della riunione dei ministri delle finanze dei paesi del G20. Si tratta di un piano che si articola in una serie di 15 azioni, per 7 delle quali si era già trovato un accordo nel 2014, e ricordiamo che in quell'occasione un capitolo molto importante era dedicato all'economia digitale, visto che come sappiamo uno degli ambiti in cui le imprese multinazionali sono più disinvolte nell'aggirare le normative sul luogo di tassazione è proprio quello delle internet company. Ora arriveranno invece nuovi spunti che comprendono misure contro i trasferimenti finanziari fittizi o contro le filiali e i fantasma. È questa la strada giusta da seguire? Beh, la risposta ovviamente non è facile. Di certo solo un accordo a livello globale tra tutti i paesi può aprire la strada a una soluzione efficace della fuga delle tasse dai paesi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Due notizie in breve per quello che riguarda il mondo dell'auto. In Europa il gap, la differenza tra i consumi dichiarati dei costruttori di auto e quelli reali, potrebbe costare, lo dice un rapporto della European Federation for Transport and Environment, entro il 2030, dicevo, potrebbe costare 1.000 miliardi di euro in più per acquisto carburanti. E all'Unione Europea un aumento dell'importazione di petrolio per 6 miliardi di barili. Della notizia su Air France, che non è una notizia di carattere economico, certo che lì c'è un taglio di lacrime e sangue, oltre 2.000 dipendenti, ma la notizia di oggi è l'irruzione di centinaia di dipendenti nella sede di Air France. Hanno urlato slogan contro i dirigenti, hanno strappato la camicia al capo delle risorse umane Javier Brosetta, che è scappato, le immagini sono abbastanza eloquenti, a torso nudo, e poi lo sciopero è in corso sia per i piloti che per il personale di terra di Air France. Sono in sciopero da questa mattina. Il taglio potrebbe arrivare fino a 2.900 posti di lavoro. Il premier francese Manuel Valls si è detto scandalizzato per le violenze durante la riunione del comitato centrale di impresa di Air France. Una notizia che riguarda il Portogallo, dove ha vinto il centrodestra di Pedro Passos Coelho, ma ha perso la maggioranza assoluta. Infatti ha avuto il 37% dei voti contro il 32,4% dei socialisti. Comunque lo spread dei titoli portoghesi dopo le elezioni si è ridotto, la differenza con il Bund tedesco scende infatti a 175 punti. Vedo che alcuni mi chiedono anche dell'IRES, visto che il premier Renzi ieri ha detto che il taglio dell'IRES partirà già dal 2016. Ne parliamo nella seconda ora, quando avremo ospite il sottosegretario Zanetti. per capire. A noi non sembra che ci siano le coperture per fare un vero taglio dell'IRES nel 2016, anche perché il governo aveva detto che nella sua, diciamo così, tabella di marcia della riduzione fiscale l'IRES l'avrebbe affrontata in maniera massiccia e significativa nel 2017. Comunque chiederemo informazioni dopo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo con un tema che può sembrare così glamour, il marchio, la marca, in realtà significa tantissimi soldi, cioè il valore a livello mondiale dei primi 100 marchi. Quando è scoppiata la crisi abbiamo difficoltà a fare puntate un po' di, così, di approfondimento, di riflessione, di medio termine, quindi ormai siamo a 8 anni che dobbiamo gestire l'attualità di tutti i giorni, però più di una volta abbiamo ricordato come in una società globalizzata, interconnessa, in rete, fatta di social network, di commenti, il marchio sia un elemento fondamentale nella scelta e nell'orientamento del consumatore, più del passato. Certo che essendo un elemento fondamentale è anche più esposto non solo ai social network, è esposto anche agli scandali. Pensate a cosa è successo alla Volkswagen. Se lo stesso tipo di taroccamento l'avesse fatto un produttore di un altro paese, magari un paese emergente, la notizia sarebbe passata in secondo piano. Invece proprio il fatto che il marchio Volkswagen fosse un marchio che rappresentasse la sicurezza, la precisione, l'affidabilità tedesca ha ingigantito e amplificato la vicenda. Comunque siamo in collegamento per parlare della classifica di quest'anno con il responsabile della sede italiana di Interbrand, che è la società internazionale specializzata nella valutazione economica dei marchi, o solo del marchio, non del fatturato, Manfredi Ricca. Buonasera. Buonasera. Allora, l'anno scorso ai primi tre posti c'erano Apple, Google e Coca-Cola. Come marchi, stiamo parlando, lo dico agli ascoltatori, non di fatturati, né di utili, né di vendite, né di ma di valore del marchio, che è una cosa un po' diversa. Quest'anno il podio è rimasto lo stesso, però poi se si fa un passo in più e si guarda a quelle che, cioè, le prime tre sono sempre Apple, Google e Coca-Cola. Okay. Esattamente, se poi si guardano alle dimensioni, Apple ha incrementato il proprio valore del 43%. Parlate del valore del marchio, vero? Del valore del marchio. Non del fatturato, certo. No. Valore del marchio. Cioè, quanto vale il marchio Apple? Io volessi comprarmi non l'azienda, ma il marchio Apple. Quanto vale complessivamente? Il marchio Apple vale 170 miliardi di dollari. Però, mi sa che ci rinuncio. E il marchio Google? Siamo a 120 miliardi di dollari. E il marchio Coca-Cola? Siamo a 78 miliardi di dollari. Questo spiega effettivamente il divario fra chi è un ecosistema basato sulla tecnologia e chi, facendo un ottimo lavoro, di fatto è ancorato evidentemente a un settore tradizionale, fa un ottimo lavoro, perché comunque essere al terzo posto con questi mostri tecnologici, però evidentemente le scale sono diverse. Oggi in un ambito di ecosistemi effettivamente si vede come chi è in grado di far girare le turbine dell'informazione e dei dati nel mondo assurge a dei livelli di valore economico che sono senza pari nella storia dell'umanità. Di fatto stiamo parlando di macroeconomia qui, non di microeconomia o di economia aziendale. Ecco, lo dico sempre agli ascoltatori, non è la conoscenza del marchio, perché probabilmente Coca-Cola forse più conosciuta, adesso dico io a naso, a livello mondiale di Apple, però è il valore del marchio, una cosa un po' diversa. Poi ci racconterà come i punti salienti su come si struttura il valore di un marchio, quindi lo studio che voi realizzate. Vorrei andare avanti con la classifica, però prima, perché dal quarto posto al decimo in realtà i movimenti ci sono stati. Quali sono quelli più significativi? Beh, il più significativo è probabilmente quello di Amazon, che è entrato per la prima volta nella top 10 ed ha incrementato di un terzo il proprio valore del brand, e questo mostra come questo brand effettivamente sia riuscito a toccare fare praticamente qualsiasi categoria di beni e di servizi o quasi. No, oggi è difficile pensare a una singola categoria in cui Amazon non riesca a entrare, questo perché di fatto quello che offre è la possibilità di mettere un consumatore al centro e di accorciare il più possibile la strada che va dal desiderare un servizio, un prodotto e poterlo avere con sé. Questo è quello che Amazon fa, ha iniziato a farlo con i libri, ha costruito il mezzo che potenzialmente mette in crisi i libri stessi, vale a dire il Kindle, e in questo modo ha di fatto costruito e ottenuto la possibilità di avere la propria minaccia competitiva in casa e quindi poterla controllare e governare. Oltre a questo, in effetti si sta espandendo in tutte le categorie ed è difficile pensare a dove possa arrivare. Un caso molto interessante di un'azienda che innova, a volte fallisce, ma che non sta mai ferma. Ed è una delle poche dot-com originarie che oggi sono in grado di creare effettivamente valore economico. Allora, e voi avete appunto Amazon che è entrata al decimo posto, Microsoft che è quarta, era quinta, IBM era quarta, scende al quinto posto, Toyota era ottava e sarà al sesto, poi c'è Samsung che resta al settimo posto, General Electric che scende all'ottavo e alla sesta, McDonald's che resta nella stessa posizione. Venendo appunto a Toyota, sì, se ho ben visto, il valore dei marchi automobilistici resta molto importante nella vostra classifica, no? Sì, e questo per motivi sia che attengono al passato sia al futuro. Per quanto riguarda il passato, ovviamente l'auto è sempre stato, non solo ha sempre avuto a livello globale una dimensione molto importante, questo è ovvio. Il brand nel settore automotive è qualcosa che tradizionalmente è sempre stato molto forte, è sempre stato uno dei motivi per cui si sceglie di acquistare una vettura. Oggi assurge a un significato diverso perché è un settore che è in grande cambiamento, in grande movimento, perché questi costruttori industriali stanno di fatto per trasformarsi o puntano a trasformarsi in erogatori di servizi di mobilità in senso ampio, cioè difficilmente sarà sempre possibile continuare a costruire vetture e quindi essere delle entità puramente industriali, sempre di più sarà necessario offrire dei servizi di mobilità integrata che magari prescindono dalla vettura in sé per sé. Questo è un aspetto e questo ovviamente è una migrazione che si può fare nel momento in cui si ha un marchio credibile che ti permette di fare questa trasformazione. Se pensiamo a IBM, anni fa ha fatto la trasformazione da produttore di hardware a produttore di servizi. Il settore automotive sta per affrontare la stessa cosa. L'altro aspetto è quello della sostenibilità, dove un marchio che è credibile, un brand che è credibile in quest'ambito, è sempre di più un brand che attira la preferenza e il desiderio delle persone, soprattutto nelle generazioni più giovani. Quindi queste sono le sfide e questi sono gli aspetti. No, capito, ma voi non, sì, adesso la classifica incorpora lo scandalo Volkswagen, perché sì, come è fatto in due settimane? Volkswagen in effetti scende, quindi ha perso un 9% di valore. Sì, ma ha perso nelle ultime due settimane? Sì, di fatto sì, perché l'analisi è stata condotta in maniera tale da considerare questo. Ovviamente quello che si ha non è un impatto oggi in termini di fatturato effettivo, nessuno sa effettivamente cosa accadrà a livello di conto economico. Quello che si può dire è che è un marchio, che da un punto di vista, un brand, che da un punto di vista competitivo oggi è meno forte. Chiamiamolo anche marchio. Bene. Sì, beh, mi attengo a quelle che sono le direttive internazionali, ovviamente. Sì, adesso però si attenga alle mie, che io odio gli inglesismi, per cui infatti, chiamiamolo marchio. Chiamiamolo marchio. Di fatto quello che è accaduto è che questo marchio oggi è stato indebolito e toccato nella sua reputazione, ma quello che occorre sempre considerare in queste crisi di marketing è che poi l'impatto vero di questa crisi è dato da come si reagisce, con quale rapidità e con quale trasparenza, e da questo punto di vista il gruppo Volkswagen ha sicuramente mostrato di intervenire immediatamente in modo molto trasparente. Ci sono state in passato altre crisi di marketing come quella di Toyota e dei richiami negli Stati Uniti o quella di Nike riguardo al lavoro minorile. Il punto è sempre l'impatto vero poi si ha nel momento in cui si reagisce, si controlla e si è in grado di avere una posizione che è trasparente. Per il momento Volkswagen l'ha fatto e quindi l'impatto di questa crisi potrebbe essere, da un punto di vista di marchio, potrebbe essere più lieve di quello che si immagina oggi a pochi giorni dall'emergere dello scandalo. Allora resti con noi, Manfrederica, anche perché molti ascoltatori ci chiedono: ma la Nutella, ma la Ferrari? Ci arriviamo adesso. La Nutella è un prodotto, qui si va sui marchi dei gruppi, quindi dovrebbe essere Ferrero. Ma giustamente cerchiamo di capire anche dove sono e dove si collocano gli italiani. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Meteo. Focus Economia. Minuti di nuovo con Sebastiano Barisoni. Stiamo concludendo l'intervista sulla classifica dei marchi, vedo che alcuni commentano anche in maniera polemica. Allora, dicevo, i nuovi ingressi: Lego Lego, i giochi per bambini, la Lego all'82esimo posto, PayPal al 97esimo, Moët Chandon al 99esimo, Lenovo al 100esimo, ed è il secondo marchio cinese a entrare in classifica dopo Huawei, 88esima, che era entrata nel 2014. Poi Facebook è al 23esimo. Ora, Manfrederica, tra i marchi italiani c'è Gucci, che non è italiana, insomma, marchi che si riconducono all'Italia, non come proprietà. C'è Gucci al 50esimo posto e Prada al 69esimo posto. Ma com'è possibile che non ci sia la Ferrari? Ferrari non c'è, è un marchio fortissimo, però è all'interno di un'economia aziendale che è molto ridotta, se consideriamo che in questa classifica abbiamo cose della dimensione di General Electric, McDonald's e così via. Questa, come giustamente ricordava prima, è una classifica per valore economico e di conseguenza... Oddio, io non capisco, se non voglio fare nazionalista, però visto che la Ferrari si sta quotando, però Land Rover ce l'avete all'87esimo posto, ora, per Harley Davidson è al 79esimo. Ora, se volete dirmi che il marchio Harley Davidson vale di più, è un marchio una roba della Ferrari, io su questo, c'è anche la Mini che è una new entry, è entrata al 98esimo. Ora va bene tutto, però che la Mini valga come marchio più della Ferrari e anche Land Rover Harley Davidson, qualche dubbio ce l'ho. Nel momento in cui si considera anche il giro d'affari, quindi quello che effettivamente è il volume economico che questi marchi generano, dobbiamo considerarlo. Se se noi ci trovassimo a fare una classifica puramente per forza competitiva, riconoscibilità, non c'è dubbio che Ferrari sia uno dei marchi a livello planetario più riconosciuto, più forte, su questo non c'è dubbio. Nel momento in cui si introduce l'aspetto economico, l'aspetto quantitativo, Ferrari, secondo tutte le scale, è un'azienda di dimensioni decisamente più piccole, e questo spiega perché non trova posto in una classifica come questa, c'era fino a qualche anno fa. E qui veniamo all'ultima domanda che ho per lei. Ci può riassumere nella parte finale i punti salienti dello studio che voi effettuate su questi marchi, proprio alla luce anche di quanto le ho appena detto? Cioè, cosa mettete assieme? Se no vedo molte domande che dicono: ma come? Appunto, Nissan o la Kia più un valore più alto, la Kia è 74esima, Hyundai, con tutto il bene che vogliamo, ma rispetto alla Ferrari non si capisce perché siano così alte. Cioè, che cosa voi infilate nello studio sui brand, sui noi marchi? Consideriamo tre aspetti, che sono: il primo, un'analisi finanziaria di previsione di quella che è il valore economico prospettico realizzato sulla base di dati pubblicamente disponibili. A questo applichiamo quello che noi definiamo il ruolo del brand, quindi andiamo a identificare il ruolo che il brand ha nel generare domanda e quindi nel generare questo valore economico, e questo può variare in funzione di settore ma anche in funzione dello specifico brand che stiamo analizzando. L'ultimo passo è quello di definire un profilo di rischio, ovvero una forza competitiva del brand, per identificare i punti di forza e di debolezza del brand rispetto alla sua concorrenza. Quindi ci sono brand che hanno una dimensione economica enorme come General Electric, ma da un punto di vista di ruolo del brand sono relativamente più bassi perché si opera in categoria dove il brand conta relativamente meno. Ci sono, al contrario del caso di Ferrari, brand che sono fortissimi ma che da un punto di vista finanziario generano un valore economico che rispetto ad altri in classifica ovviamente è più basso. Teniamo sempre conto del fatto che la classifica è una classifica su 100 brand e di conseguenza è sufficiente un ingresso per far sì che vi sia un'uscita, quindi va anche considerata in termini relativi, cioè il valore è qualcosa che è puramente addebitabile e ascrivibile a un brand, mentre invece la posizione in classifica è ovviamente frutto anche di come si muovono gli altri brand che stiamo considerando. Quindi per concludere, noi andiamo a analizzare l'aspetto finanziario, l'aspetto di generazione della domanda, quindi di comportamento della clientela, e un'analisi molto granulare su diverse dimensioni di quella che è la forza competitiva. Questo permette di guardare al brand esattamente nel modo in cui si guarda al valore di un'azienda, quindi secondo quello che è il valore futuro realizzabile e la probabilità, ovvero il rischio che questo valore venga realizzato. Quindi non è, ripeto per l'ultima volta, la conoscenza del marchio a livello mondiale, perché avremo un altro tipo di classifica. Grazie a Manfredi Ricca, appunto responsabile in Italia di Interbrand. Grazie molte. Le vedo le contestazioni, il fatto, sì, insomma, è il metodo con cui viene calcolato il valore del marchio. Ripeto, se andassimo sulla conoscenza la classifica sarebbe completamente diversa. Comunque, dai 100 marchi di maggior valore al mondo a due marchi storici dell'editoria italiana che adesso diventano un'unica cosa, nel senso proprietario, perché la borsa è da mesi che speculava su Mondazzoli, e poi con un po' di ritardo anche rispetto alla tabella di marcia si è avuta l'operazione nel fine settimana, e cioè la Mondadori per 127 milioni e mezzo di euro su una valutazione complessiva di 130 milioni ha comprato la Rizzoli Corriere della Sera Libri, con l'unica esclusione, diciamo, che è il marchio Adelphi, che invece verrà acquistato interamente dal suo fondatore, che è neanche socio, Roberto Calasso. Passano quindi la Mondadori sia Rizzoli che Burr che Bompiani che e Marsilio, e Mondadori già Einaudi, PM e Spellingkupfer. Molto forte la reazione questa mattina in borsa, soprattutto ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. Allora, diciamo di Mondazzoli, della borsa, poi si è un po' placata l'euforia di borsa, adesso vi arriviamo. Intanto Simone Filippetti, buonasera del Sole 24 Ore. Buonasera a voi, ciao Sebastiano. Prima domanda, che cosa se ne farà la Rizzoli Corriere della Sera di questi 127 milioni e mezzo? Dovrà girarli alle banche, perché Rizzoli ha oltre mezzo miliardo di euro di debiti, 526 milioni per la precisione. È una situazione patrimoniale molto difficoltosa, e dentro l'anno si è impegnata con le banche a riportare l'indebitamento a 440 milioni. Se non lo farà, sarà costretta a fare un aumento di capitale da circa 200 milioni, e ovviamente i grandi soci di RCS, che ricordiamo sono la Fiat degli Agnelli, Mediobanca, ci sono gli eredi di Rotelli e altri membri di quello che amiamo chiamare Salotto Buono, non hanno alcuna intenzione di voler mettere mano al portafoglio. Però oggi la borsa ha premiato molto più Rizzoli con un più 5,40% che Mediaset più 2,31%. Uno potrebbe anche dire, è già una notizia che premia anche Mondadori, scusatemi, che premia anche Mondadori, perché di solito chi compra non sempre viene premiato dalla borsa, però la differenza è netta. Sì, poi c'è da dire che RCS era crollata, ricorderai, di quasi il 6% la settimana scorsa, sui timori che questo accordo saltasse, perché dopo mesi di trattativa, come tu giustamente hai ricordato, sembrava che l'accordo non si facesse più, che all'ultimo momento il tavolo saltasse, ed ovviamente senza questo incasso RCS sarebbe trovata in grossissime difficoltà finanziarie. Senti Simone, nasce comunque, al di là dell'operazione finanziaria, il più grande editore di libri in Italia, perché avrà quasi il 40% della quota di mercato, ricavi per oltre mezzo miliardo di euro, e possiede Mondadori, infatti, in Audi, PM, Spellingkupfer, Electa, Frassinelli, porterà a casa anche i marchi Rizzoli, anche Rizzoli International Publications, Bompiani, Marsilio, Fabri, Burr, Sonzogno, Etas, tutta la divisione Education, poi autori che vanno da Umberto Eco, Andrea De Carlo, Michel Houellebecq. Ci sono due fronti ancora aperti. Uno è deve pronunciarsi l'antitrust su questo. Sì. E dall'altro faccio notare che Questo nuovo gruppo avrà il 35% del mercato dei libri, quelli comprati in libreria o sul web, quasi un quarto del settore scolastico, ma nessuno degli autori, degli scrittori si è lamentato, lo dico perché in anni passati, visto che la Mondadori di Berlusconi ci furono levate gli scudi, mi ricordo ai tempi dell'Einaudi addirittura, sembrava che venisse meno l'autonomia e l'indipendenza dell'Einaudi. Simone? Sì, questo è un tema molto delicato, è vero che in passato molti autori intellettuali appartenenti appunto alle intelligenze del paese. Usiamo con cautela la parola intellettuale, perché diciamo autori di libri, poi gli intellettuali. Vabbè, siamo intellettuali rispetto al livello del paese, sempre relativo. Si erano lamentati appunto per questa presunta mancanza di libertà sotto il cappello di Silvio Berlusconi. Ma ci sono autori come Corrado Augias che non fanno mistero della loro militanza di sinistra, che pubblicano da anni e con grande successo con la Mondadori, quindi forse. Beh, dai, io faccio anche la battuta cattiva, la faccio io. Il problema è che c'è la crisi per tutti, e quindi in questo momento. No, però qualche mal di pancia c'è stato. Infatti, ad Elfi e Calasso, che subito, quando uscirono anche i primi rumor di un possibile accordo, levò gli scudi, e infatti la Delfi non entrerà nel perimetro della Delfi. Però la Delfi è una storia un po' diversa, perché è veramente la creatura di Roberto Calasso. Comunque, se non voglio rubare il posto a Alessandra Tedesco, la nostra esperta di libri, e invece vorrei capire l'antitrust, c'è il rischio che metta a repentaglio tutta l'operazione oppure no? Perché ho visto le dichiarazioni, il ministro Franceschini ha detto c'è un rischio per il delicato mercato dei libri, il governo non può né deve intervenire, valuterà l'antitrust. Non è invece il presidente di RCS Libri Paolo Mieli, ha detto non è una manovra autoritaria, la competizione è tra colossi dell'editoria. Marina Berlusconi ha detto che è un'operazione di cui siamo orgogliosi, e invece poi Codacons ha presentato un esposto all'antitrust per appunto il rischio di un monopolio di fatto nel prezzo dei libri praticati da Mondazzoli, come tutti chiamano in maniera abbastanza oscena questa fusione. L'antitrust. L'antitrust è un problema, infatti la trattativa ha rischiato di arenarsi proprio sul il nodo dell'authority. Non è escluso che i garanti possano chiedere qualche limatura o intervento. Considera che il mercato dei libri in Italia oggi vale 1,2 miliardi di euro. Parliamo dei libri trade, cioè quelli appunto che si comprano in libreria, il romanzo, il saggio. Escludiamo la l'editoria scolastica. Certo. L'unione Mondadori e RCS crea un colosso che nei libri fatturerà circa 500 milioni. Quindi un problema antitrust si pone, potrebbe l'autorità chiedere di vendere qualche marchio oppure di liberarsi di qualche canale distributivo, ad esempio vendere alcune librerie, perché poi il problema è anche la distribuzione, non è solo scrivere un libro, in realtà il vero rischio di mercato è avere un monopolio nella distribuzione, cioè io entro in un negozio e trovo solo autori e Mondadori. Sì, e questo è l'altro rischio. Quando è che dovrebbe pronunciarsi l'antitrust? Qui c'è un problema, un sottoproblema. In teoria 60 giorni. Se chiederà delle integrazioni o delle modifiche all'accordo, come per esempio appunto cedere qualche marchio o la distribuzione, si arriverebbe a 90 giorni. Ma così si scavalla il 31 dicembre ed RCS ha bisogno di incassare la cifra entro il 31 dicembre per rispettare gli accordi con le banche, i famosi covenant finanziari. Quindi su qui c'è un po' di, come dire, di incertezza, e che dovrà essere risolta. E quindi stiamo a vedere quando si esprimerà l'antitrust. Grazie intanto a Simone Filippetti, sono a ridosso del GR, vi dico subito solo, anzi, il resto del listino, al di là dei migliori, Saipem oggi l'ha fatta da padrona, più 10,48%, molto bene oggi tutti gli energetici, infatti anche Eni porta a casa il 4,33%, poi c'è il nuovo titolo, per modo di dire, Hughes Net-a-Porter, la fusione tra due gruppi, più 6,74%, bene anche Tenaris, CNH, più 5,70 Tenaris, più 5% CNH Industrial, euro quota 1,12, ne parliamo dopo il GR24. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar, ce l'ha con te questo? Ma no, ce l'ha con no, te, no, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a Noi Due, che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Focus Economia. Otto minuti, fra poco arriviamo al tema del canone, lo dico agli ascoltatori che continuano a scrivere, giustamente anche molti non ho la televisione, cosa succederà? Mi arriverà comunque il canone in bolletta? No, dei dettagli di quello che ha annunciato il Presidente del Consiglio ieri, cioè l'ipotesi che il canone arrivi in bolletta, ridotto come montare, sono ancora, cioè così, siamo proprio alla cornice, all'annuncio. Immagino che vi sarà un modo anche per comunicare che non si possiede l'apparecchio televisivo, non so se sarà un'autocertificazione, una dichiarazione, è ovvio che non ti può arrivare semplicemente il canone, anche perché non so se siano tutti amanti di Radio 24, ma parecchi ascoltatori ci stanno scrivendo che non hanno da anni più la televisione in casa. Detto ciò, concludiamo con la borsa, perché al di là della vicenda Rizzoli e Mondadori, oggi la vicenda più importante si chiama Saipem, più 10,5%, fortissimo il titolo, che molto era calato però nei mesi scorsi, era scivolato la scorsa settimana vicino ai 7 euro per azione, faccio notare. E allora, Guido Maurino, Radio Cori Sole 24 ore, buonasera. Buonasera. Adesso siamo l'ultimo prezzo per Saipem è di 8,33 euro. Saipem. Sì, allora, per quello che riguarda Saipem, come dicevi tu, si tratta in parte di un rimbalzo dopo che era scivolato sui minimi, in parte dell'attesa che cresce, visto che a fine mese dovrà essere presentato un nuovo piano. In questo piano bisognerà vedere come arriverà Saipem, si parla di un aumento di capitale da 3 miliardi, ma prima di questo potrebbe esserci il fatto che Eni venda un 15-20% della sua quota, attualmente al 42%, a Cassa Depositi e Prestiti, e poi entrambe, come dire, promuovano e partecipino a questo aumento di capitale. E sullo sfondo di questo resta sempre la rinegoziazione, non la rinegoziazione, ma il rifinanziamento del debito, perché proprio l'aumento di capitale potrebbe farlo ottenere a condizioni più vantaggiose. Per cui una serie di questioni che oggi hanno spinto il titolo. Molto bene, Yux Net-a-Porter, che è il gruppo nato dalla fusione tra i gruppi di vendita dell'abbigliamento online Yux e Net-a-Porter, si chiamerà INAP, vabbè, comunque la sigla abbreviata, più 6,70%. Sì, oggi diventa efficace la fusione fra i due gruppi, Yux e Net-a-Porter, e sono stati presentati alcune delle strategie della società, fra cui sono state ribadite ad esempio le sinergie, che saranno 60 milioni di euro a livello di margine operativo lordo a regime, e si è iniziato anche a parlare di un aumento di capitale da 200 milioni che in questo caso dovrebbe servire a fornire prospettive di crescita, a far sì che Yux Net-a-Porter possa essere un polo aggregante per il futuro nel commercio elettronico. Allora, bene oggi anche Piaggio, ma poi bene Tenaris, dopo i dati sulle vendite di due ruote in Italia dei giorni scorsi, Tenaris più 5,70, CNH più 5, Banco Popolare più 4,5, Azimut più 4,40 come Mediaset, di questo ragioniamo tra un attimo, e come Telecom Italia, ma anche Eni guadagna il 4,40%, il 4% è il rialzo di Fiat Chrysler e di UbiBanca, il 3,70 di Mediobanca, Finmeccanica e il Monte dei Paschi, il 3,60 lo guadagna Ferragamo, il 3,30 Buzzi, Unicemed, ST Microelectronics. Mi fermo col 3%, che è il rialzo di Unipolsai, ma anche della Popolare di Milano e di Mediolanum praticamente. Negativa Terna dello 0,30%, vista la giornata, cioè Parigi più 3,5, Francoforte più 2,70, Londra più 2,70, Milano più 2,70. Come mai Terna perde lo 0,30? Sì, perché è uscito un documento dell'Autorità per l'Energia che punta a rivedere i meccanismi per gli incentivi agli investimenti sullo sviluppo della rete. Si tratta ancora di un documento di consultazione, per cui non è in qualche modo vincolante, ma è un segnale che l'autorità intende rivedere questi meccanismi. Gli analisti oggi facevano alcuni primi calcoli e potrebbe tradursi in un impatto negativo del 2-3% per Terna sugli utili per azione. E poi diciamo di Mediaset, che si avvantaggia non dell'operazione Mondadori, ma di quanto adesso stiamo per discutere, quanto dichiarato dal Premier ieri, cioè un abbassamento del canone perché ti dovrebbe arrivare in bolletta. Mediaset più 4,40%. Sì, c'è questo aspetto su cui si inizia a ragionare, perché anche se sono solo una fase molto preliminare di annunci, quale potrà essere l'impatto di un canone minore per un concorrente, per cui Mediaset potrebbe avvantaggiarsi. Si discute anche in questa fase su quelli che possono essere i risultati di Mediaset Premium. Ci sono state notizie non particolarmente positive, perché si parla di 1,8 milioni di abbonati, che sono sì un miglioramento rispetto ai mesi scorsi a inizio anno, ma sono al di sotto delle aspettative degli analisti, che si aspettavano un balzo superiore, visto che quest'anno appunto c'è l'esclusiva della Champions League di calcio, che avrebbe potuto dare un plus a Mediaset. Allora, nel ringraziare Guido Maurino, ricordo anche i migliori e peggiori, appunto Saipem, poi Sogefi più 7,40, RWE più 7,30, Gabetti più 7%, Frontopposto, Key Group meno 5,20, poi poca roba, Modelleria Brambilla meno 2,80, Invest meno 3,20, Alba Private Equity meno 3,55%. Passiamo al prossimo tema, che sono le dichiarazioni rese ieri nel programma della RAI di Lucia Annunziata in mezz'ora dal Presidente del Consiglio. Partirei però prima dall'annuncio sull'IRES, perché poi arriviamo a quello sul canone, perché Renzi ha detto in maniera un po' a sorpresa che sull'IRES il taglio partirà già dal 2016, non dal 2017 come aveva indicato inizialmente il governo, che aveva detto 2016 IMU e TASI e poi le tasse sulle imprese dal 2017. Il prossimo anno ci sarà anche, a dispetto delle aspettative, un intervento significativo sul lavoro, cioè per le imprese, di riduzione delle tasse per le imprese. Questa è la famosa IRES di cui lei ha già parlato. Che io volevo portare nel 2017, d'accordo con Padoan. Credo che riusciremo almeno in parte ad anticiparlo al 2016. Ecco. L'ipotesi era: facciamo un investimento per dare un segnale a quelle zone del paese che vanno un po' meno bene. Ma non però si può questo fare. Tipo di operazione, che si faceva nei tempi della Prima Repubblica, non si può fare si chiama, va contro una disciplina che si chiama aiuti di Stato, sì. E più in generale è una disciplina che non soltanto aiuti di Stato, ma che riguarda, diciamo, norme sulla competitività, in soldoni. E allora quindi come lo vuole fare? Tutti. E adesso cerchiamo di capire cos'è anche questa e quale parte dell'IRES. È arrivata già un commento a parte del presidente Confindustria Squinzi durante la manifestazione EMO. Ha detto: beh, saremo contenti se lo vedremo questo taglio dell'IRES. Siamo ben contenti quando si tagliano le tasse, però vediamo se poi verranno veramente tagliate. Presidente, il settore dell'automazione è un settore che sta dando buoni segnali? Beh, sicuramente sì, perché soprattutto nella meccatronica come paese siamo all'avanguardia. Pensate ai discreti della meccatronica dell'Emilia Romagna e avete la conferma diretta e immediata che siamo veramente all'avanguardia. Allora, il traffico, poi saluterò il sottosegretario Zanetti per capire esattamente che molti stanno scrivendo: il canone era una tassa, lo paghi anche per la radio o l'iPhone. Ho capito, ma mi scrive un'ascoltatrice che in Francia da sempre arriva, dov'è che l'ho persa? Arriva una cartella esattoriale per la tax audiovisuelle in cui ti chiedono di dire se hai ancora la televisione o il mezzo per cui paghi la tassa, o altrimenti eccola qua. E qual è l'abitazione principale dove la paghi già? Quindi immagino che anche a noi sarà consentito poi dire: no, non ce l'ho più, in quell'abitazione non ce l'ho. Comunque, traffico. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Focus Economia. C'è una tassa che non è una tassa, che riguarda anche questi studi, che è il canone. Una delle misure che sarà contenuta in legge di stabilità è che noi riduciamo il canone e contemporaneamente diciamo che lo devono pagare tutti. Quindi attraverso un meccanismo che permetterà a tutti di pagare il canone, per cui chi fa il furbo... Lo metterete nella famosa bolletta? Credo che questo sia lo strumento saranno che verrà scelto, però le do anche la cifra. Oggi il canone costa 113 euro, sì. Il prossimo anno costerà 100 euro. Allora, questa è la dichiarazione appunto del Premier Matteo Renzi ieri a Lucia Annunziata in mezz'ora, sulla RAI chiaramente, però vediamo di dare due cifre prima di capire la partita in gioco. Il canone vale complessivamente 1 miliardo e 600 milioni di euro, costa, come diceva il Premier, 113 euro e mezzo all'anno in Italia, 131 in Francia, 174 euro in Gran Bretagna e 215 euro in Germania. Questo a dire che non è solo l'Italia in cui si paga il canone per la TV pubblica. Il problema è che da noi lo pagano circa 16 milioni di utenti e già si capisce che non lo pagano tutti, perché insomma non ci sono 16 milioni di televisori in Italia, non ci sono solo 16 milioni di televisori. Il tasso di evasione poi è molto molto squilibrato a livello regionale, dispiace dirlo, ma insomma in Campania il 45% non paga il canone, a Napoli si arriva al 60%, in Sicilia il 41%, in Calabria il 40%, poi ci sono le regioni più virtuose, in Toscana solo il 17% non paga il canone, in Liguria il 18%, in Emilia Romagna il 19%, Lombardia, Veneto 20% non lo paga, Lombardia 24%. Quindi anche nella virtuosa Lombardia 1 su 4 praticamente il canone non lo paga, per arrivare a 1 su 2 in Campania. Perché lo dico? Perché la prima riflessione che mi viene è: vabbè, ma se tu lo fai scendere da 113 a 100, ma lo fai pagare a tutti, in realtà il gettito per la RAI è più alto. Nulla di male, ma basta dirlo, cioè basta dire che questo serve a dar più gettito alla RAI. Vorrei capire esattamente dove, se invece vuoi mantenere 1 miliardo e 600 milioni devi abbassarlo ulteriormente, immaginando che tutti lo pagano perché arriverà in bolletta, tutti lo paghino perché arriverà in bolletta, beh, devi abbassarlo di un po'. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, buonasera. Buonasera. Sottosegretario Zanetti, il calcolo l'abbiamo fatto un po' a spanne, però insomma, se diciamo che l'evasione in questo paese del canone è intorno al 30% e tutti lo pagheranno se arriverà in bolletta, vuol dire avere un gettito, diciamo, che scende del 10% rispetto al costo, ma aumenta del 30% rispetto al versamento, a casa mia, rispetto a spanne, da 1 miliardo e 6 passeremmo quasi a 2 miliardi? Sì, indubbiamente sono numeri così, prima massima, ma che hanno assolutamente un fondamento. Innanzitutto premetto che come componente di maggioranza di Scelta Civica saremo per la privatizzazione della RAI e quindi l'abolizione del canone. Lei ha fatto però bene anche a ricordare che ci sono altri paesi dove addirittura questo tributo è sostanzialmente maggiore all'Italia. Ecco allora che nell'istante in cui comunque si è in un contesto in cui la maggioranza complessiva non ha avuto l'idea di seguire delle politiche così radicali e quindi bisogna confrontarsi con un canone da pagare, anche noi siamo d'accordo che si deve trovare il modo di farlo pagare a tutti. Quello della bolletta può essere una scelta, anche se ha una serie di difficoltà tecniche da superare, ma appunto si deve pagare tutti per pagare meno e non fare più gettiti, basta scendere a 100, bisogna scendere almeno a circa 80-85 euro. 80-85 euro ha detto? 80-85 euro, nell'istante in cui l'evasione media nazionale è stimata tra il 27 e il 30%, applichi questa decurtazione ai 113 attuali, nell'istante in cui pagano tutto, si scende intorno a un 80-85 euro, cosa che peraltro renderebbe anche più ragionevole mettere in pista un ambaradan del genere rispetto altrimenti a un decremento di appena 13 euro, posto che, ripeto, stiamo parlando di cambiamenti non da poco. Sì, oddio, se costasse 13 euro in meno il vantaggio sarebbe ovviamente per noi minore, ma tra l'altro si rischierebbe, tra virgolette, di dare un gettito alla RAI ben più alto, ripeto, a quel punto arriveresti ai 2 miliardi, per cui il governo può anche dire la RAI ha bisogno di più soldi, oppure può dire facciamo pagare il canone a tutti ma lo facciamo pagare meno, a quel punto però i conti non tornano perché 100 euro sono troppi se lo pagano tutti. Sulla modalità di pagamento, perché abbiamo visto Adusbef Federconsumatori dire che è illegale mettere il canone in bolletta, non so se sia illegale, contrario anche l'Istituto Bruno Leoni, però dico, Asso Elettrica oggi ha detto, attenzione, per voce del suo presidente Chico Tessa, resta un grande pasticcio mettere il canone in bolletta, restiamo contrari, in questo modo il consumatore non saprebbe più cosa sta pagando e noi non riusciremo più a fare il nostro mestiere. Si potrebbe anche pensare alla bolletta del gas. Insomma, insomma, questa mi sembra, no, dico, questa mi sembra una... Hanno detto altri osservatori, non Testa nella dichiarazione che ho citato. Ma insomma, a me non sembra un vero pasticcio, insomma, chiaramente sarebbe scorporato nella mia bolletta intesa come consumo di kilowattora, no? Cioè, assolutamente, credo che sarebbe del tutto evidente la possibilità di che cosa si sta pagando, qual è il contributo specifico. Nell'istante in cui si entra in una logica così di cambiamento della modalità di riscossione, trovo che sicuramente la bolletta elettrica sia la più naturale da concepire, anche perché partiamo da un presupposto, e cioè che oggi, al di là del possesso dell'apparecchio televisivo, si tratta di avere anche riferimento a una serie di dispositivi molteplici che consentono poi la visualizzazione. Tutti hanno in comune una sola cosa, cioè che tutti hanno bisogno di energia elettrica. Quindi nell'istante in cui si ragiona di un cambiamento di riscossione, quella è la strada. Ci sono difficoltà tecniche significative, però appunto dal nostro punto di vista bisogna fare un'operazione che sia assolutamente pareggiante, non può essere un'operazione che determina addirittura un aggravio complessivo del prelievo, perché allora stiamo facendo un'operazione diversa e sarebbe più trasparente dirlo. Ecco, visto che parliamo di tasse e di prelievo fiscale, voi state pensando, per quello che riguarda invece le imprese, a un bonus per il rinnovo dei macchinari che incentivi le imprese a modernare i loro impianti? Sì, stiamo lavorando su questo. Il 2015 è stato l'anno degli incentivi, in particolar modo sul lavoro e quindi sui contratti a tempo indeterminato. Il 2016 deve essere l'anno degli incentivi per il rinnovo del parco macchinari e degli impianti, proprio per accrescere la capacità produttiva delle nostre imprese. Stiamo pensando a un meccanismo molto semplice che sia parametrato al costo di acquisto sostenuto e che consenta, su quel costo di acquisto, di dedursi attraverso l'ammortamento un qualcosa in più di ciò che si è effettivamente pagato, di cui quindi l'incentivazione, insieme naturalmente alla prosecuzione degli ottimi esiti che stanno dando le misure della nuova Sabatini su questo fronte. Quindi poniamo che un macchinario, giusto per capire, un macchinario costi 100, poniamo 140, sempre faccio un numero a titolo di esempio, attraverso poi il processo di ammortamento ordinario, quindi c'è un processo di ammortamento. Quindi il bonus è di 40 e diventa un ammortamento di 140, lungo largo, no? Ho capito bene? Esattamente, anche se tu hai speso 100 ti ammortizzerai un costo di 140 nel numero di anni previsto dal piano di ammortamento della tua del tuo specifico bene e del tuo specifico azienda. Ultima domanda, sottosegretario Zanetti, il tema della fiscalità. Ieri il premier Renzi ha detto, parte il taglio dell'IRES per tutti, inizieremo a ridurre già dal 2016 le tasse sulle imprese. Io avevo capito che dovesse partire nel 2017, ma lei ci può confermare che ci sono le coperture anche per l'IRES? Guardi, il grosso dell'intervento sarà comunque nel 2017, nel 2016 iniziamo a fare degli interventi anche sul lato società, che sembrano essere stati altrimenti dimenticati, tanta la concentrazione sul discorso della casa, e tra questi interventi ci sono appunto gli interventi ad esempio per tutte le imprese che innovano, che investono, quelli di cui abbiamo appena parlato. Dopodiché, se ci sarà spazio anche per intervenire sull'aliquota, un inizio di abbassamento si procederà, però di sicuro nel 2016 gli interventi sull'IRES ci sono per tutte le imprese, non solo per quelle del sud, partendo dalle imprese che investono. Però mi dice, il grosso lo farete nel 2017, cioè le coperture... La gran parte dell'intervento, sì, anche perché parliamo di un intervento assolutamente significativo. Ricordo che sul 2017 l'obiettivo sul comparto IRES-IRAP è di intervenire per circa 15 miliardi, circostanza che ci potrebbe portare ad abbassare le aliquote in modo estremamente significativo, anche fino al 20% l'IRES. È chiaro che l'entità di questo intervento non può collocarsi già quest'anno, dove dobbiamo 15 miliardi disinnescare, certo, anche le clausole di salvaguardia IVA, fa parte del piano che poi si snoda anche con l'IRPEF nel 2018. Quindi qualcosa nel 2016, però visto che il grosso dei soldi appunto sono 16 miliardi per evitare le clausole di salvaguardia e quindi l'aumento dell'IVA, esatto, più i soldi che vi servono, abbiamo capito, 5 intorno per il comparto immobiliare, esatto, 4,5 per IMU e TASI, quindi il grosso della partita si rimanda al 2017, questo anche per le coperture. Sulle coperture tutto bene, sottosegretario, perché adesso siete addirittura d'arrivo, Beh, insomma, diciamo, stiamo arrivando verso la fine, tra poco vedrete, è chiaro che la coperta è inevitabilmente non larghissima, soprattutto a fronte dei progetti così ambiziosi che stiamo portando avanti con numeri significativi, tutti concentrati sulla riduzione delle imposte. Non è una, se avessimo voluto fare un lavoro facile avremmo puntato a fare meno, ma riusciremo in qualche modo alla fine a trovare tutto quello che serve per mantenere in piedi le cose che abbiamo detto in queste settimane. Ma vi attendete molto in questa legge di stabilità, come si chiama adesso la legge finanziaria, da quello che inizierà ad avvenire stasera? Stasera c'è il vertice Eurogruppo, domani vertice Ecofin, si discuterà anche dei parametri di flessibilità, la flessibilità che potrà ottenere l'Italia. Si basa su questa flessibilità buona parte della manovra? Una parte non indifferente della manovra si basa senza dubbio proprio sulla possibilità di utilizzare le clausole di flessibilità, quella sulle riforme, quella sugli investimenti. Per ora non abbiamo contato di utilizzare anche quella sui cosiddetti eventi straordinari, però anche quella c'è in campo. Il vantaggio dell'Italia è che si è messa nelle condizioni di poter legittimamente chiedere l'attivazione di tutte queste clausole. Poi in concreto fino a che misura e quali lo vedremo anche nei prossimi giorni, certamente anche alla luce di questi vertici. Grazie al sottosegretario all'economia Enrico Zanetti. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Vedo tantissimi messaggi ancora. Non si sa niente sulle modalità. Abbiate un attimo di pazienza e vediamo se veramente le parole seguiranno i fatti. Intanto da Sebastiano Berisoni le auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.